l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta come ogni sabato su Radio 24. Oggi in particolare siamo in diretta dal Festival di Internazionale da Ferrara Chiostro San Paolo. Questo programma in collaborazione con Euronet, cerchiamo oggi di essere una finestra su quello che sta accadendo in queste ore a Ferrara, non solo oggi ma quello che accadrà anche nelle prossime ore e domani. Infatti abbiamo invaso uno spazio non nostro, lo spazio della rassegna stampa internazionale, la rassegna stampa europea, e con me sul palco qui in diretta do il benvenuto e ringrazio per averci ospitato di fatto Giampaolo Accardo, condirettore di Press Europe. Ciao Giampaolo. Ciao. L'uomo che conosce il maggior numero di testate in Europa, vero? Ma mi piacerebbe. Ieri sera ho provato, l'ho messa alla prova già sull'Estonia, me ne ha fatto una carrellata interessante. E Andrea Pipini invece è responsabile delle pagine europee di Internazionale. Buongiorno. Se non erro, ciao Andrea. E Thierry Vissard, anche della funzionario della Commissione Europea, uno dei papà anche di Euronet. Di Euronet, sì. Con lui e di Press Europe. E di Press Europe, con lui parleremo di diverse cose, tra le quali un po' di satira europea con un concorso, una mostra di vignette che è presente anche qui a Ferrara. Poi altri ospiti che saleranno su questo palco, ma entriamo subito nella rassegna. Giampaolo, appuntamento importante qui per il festival, ma non solo. Cosa significa fare una rassegna europea? Beh, con una rassegna stampa si cerca di far vedere agli spettatori, ai lettori e agli ascoltatori che cosa c'è in prima pagina dei giornali europei, quali sono le principali notizie, ed è un modo per rendersi conto che in fondo ciò che fa notizia all'estero non sono le stesse cose che fanno notizia qui da noi, e che spesso c'è un divario molto ampio tra ciò che è ritenuto più importante intorno a noi in Europa e rispetto a ciò che noi consideriamo importante anche per quanto riguarda l'attualità estera, perché i giornali italiani sono molto centrati sui paesi più grossi, più vicini, Stati Uniti, Germania, Francia. Invece ci si rende conto, leggendo la stampa europea, che ci sono anche dei rapporti di vicinato tra paesi che fanno sì che in un paese siano importanti gli avvenimenti che avvengono nel paese accanto. Può essere il caso tra Repubblica Ceca e Ungheria, tra Romania e Bulgaria e così via. Ecco, tu ogni giorno di fatto fai una riunione di redazione, vi trovate, vi confrontate, cioè c'è un'attività di scouting di tutto ciò che viene pubblicato in Europa. Qual è l'umore col quale si esce da questa riunione ogni giorno? Allora, la riunione di redazione spiega un po' la nostra Press Europe, a che cosa serve prima. Noi pubblichiamo ogni giorno una selezione di articoli dalla stampa europea in 10 lingue, quindi abbiamo una redazione che sta a Parigi e che ha dei corrispondenti in Portogallo, in Spagna, in Italia e in Polonia, e tutte queste persone la mattina ci preparano una selezione di ciò che hanno letto di più interessante del contenuto delle prime pagine, che poi noi andiamo a discutere durante la riunione di redazione che avviene intorno alle 10. Si parla degli argomenti del giorno, si cerca di tirar fuori un avvenimento saliente in termini di attualità politica, economica o altro, un argomento più di società, e se ne esce con una panoramica di ciò che accade in Europa assolutamente unica, perché abbiamo delle fonti romene, abbiamo delle fonti polacche, l'ho detto, abbiamo fonti ceche, slovacche, naturalmente spagnole, portoghesi, francesi e anglosassoni. E quindi insomma questo è quello che quotidianamente accade. Oggi vi daremo un assaggio, quindi entrerei in questa rassegna stampa che sarà un po' spezzettata, un po' coi tempi radiofonici, ma vogliamo dare un'idea di quello che è accaduto ieri in Europa, quindi rassegna stampa dei quotidiani di oggi. Andrea, inizi tu? Sì, la notizia con cui abbiamo deciso di aprire, proprio per dimostrare l'interesse che Press Europe e Internazionale hanno per i giornali e i paesi che sono meno coperti dalla stampa italiana, è una notizia serba, dal quotidiano Blitz, ed è una notizia che parla di un problema di cui si è discusso spesso negli ultimi anni, in particolare in quest'ultimo periodo, che è la violenza contro le manifestazioni del gay pride, in generale manifestazioni dell'orgoglio omosessuale nei paesi dell'ex Jugoslavia. L'anno scorso c'erano stati violenti scontri a Belgrado e, se non sbaglio, a Spalato. E quest'anno, per evitare uno scenario simile, la polizia ha vietato ogni manifestazione. E secondo Blitz, che titola appunto nell'occhiello sopra il titolo "La polizia e il governo vietano le manifestazioni del Gay Pride", questo è un modo per concedere una vittoria alle posizioni degli estremisti. Questo, tra l'altro, è uno dei problemi di cui si discute più comunemente quando si parla del possibile ingresso dei paesi dell'ex Jugoslavia nell'Unione Europea, cioè la tutela delle minoranze e tutela anche dei diritti degli omosessuali e in generale delle minoranze religiose e sessuali in questi paesi. Questa è l'attualità europea, un'altra notizia, passiamo alla successiva. Allora, andiamo in Austria con il quotidiano Der Standard, che titola sui grossi scandali politici che stanno investendo l'Austria in questo momento. È in corso una vera e propria Tangentopoli, in questo piccolo paese alpino. Hanno scoperto una serie di scandali di corruzione, in particolare legato al mercato delle armi, ma non solo. E un sondaggio pubblicato quindi in prima pagina dello Standard rivela che l'82% degli austriaci ha poca fiducia nella classe politica. È un sondaggio effettuato quindi da poco l'articolo di prima pagina parla anche delle ondate di protesta che ci sono state in tutta Europa, il movimento degli indignados in Spagna, il movimento degli indignati in Grecia, anche in Portogallo, e si chiede il quotidiano, vabbè, ma in Austria perché non succede niente? E secondo il sondaggio pubblicato dallo Standard sembra che qualcosa stia cominciando a muoversi, Però rispetto agli altri paesi europei è insomma poca roba. È una cosa curiosa che salta fuori nelle interviste realizzate dallo Standard, è che i giovani sono piuttosto rassegnati, tendono a dire non cambierà nulla, e i più incavolati sono gli anziani, che chiedono una rivoluzione, che trovano inaccettabile la situazione. Questo piccolo paese alpino è bellissimo, tra l'altro, come definizione dell'Austria, me la voglio segnare. Un minuto per una terza notizia. È una notizia che viene da un giornale romeno, un settimanale culturale, ed è una notizia che riguarda la crisi dell'euro, che è un problema che, anche se la Romania e altri paesi dei Balcani non hanno l'euro, si pongono, ed è un tema su cui riflettono. E l'editorialista in questo caso si chiede se davvero il fallimento dell'euro può portare alla fine dell'Unione Europea come la conosciamo e la intendiamo oggi. È una cosa che loro sentono fortemente, perché prima o poi la Romania e la Bulgaria in particolare sognano di entrare nell'euro e sognano di entrare nello spazio Schengen, che è un altro, come dire, caratteristica molto riconoscibile dell'Unione Europea. E questo è un giornale, tra l'altro, che si occupa principalmente di questioni culturali, quindi si occupa di euro e di Unione Europea da un punto di vista molto, diciamo, strutturale più che economico, cioè culturale e di scenario. Ecco, ma voi tipo andate in vacanza e leggete questi quotidiani anche sotto l'ombrellone? No, le vacanze sono sacre. Ah, okay, perfetto. Dopodiché continuiamo a tenerci aggiornati per non scoprire le cose al nostro ritorno. Benissimo. L'altra Europa. Lavoratori non solo dai paesi dell'est Europa, ma anche da paesi del sud come la Spagna, il Portogallo e l'Italia. E una delle caratteristiche da cui si intuisce che questo fenomeno è piuttosto importante è il grande aumento delle richieste di corsi di tedesco presso gli istituti Goethe nei paesi come la Grecia, la Spagna o l'Italia. Qui continua, ancora l'altra Europa, siamo tornati in diretta alla rassegna stampa, però appunto abbiamo voluto farla ancora. Ci fermiamo un attimo però, perché vi ho anticipato che c'è anche questo concorso di vignette, che tra l'altro su Press Europe ogni giorno viene scelta una vignetta dalla stampa internazionale, quindi Thierry avete scelto di fare una selezione delle vignette più belle, più interessanti. Non è esattamente così, abbiamo deciso di fare un vero e proprio concorso di vignette, quelle che sono state pubblicate nelle media italiane, diciamo. E dunque c'è stato abbiamo chiesto dei candidati, ci sono stati più di 20 che hanno risposto con più vignette, poi abbiamo selezionato le vignette le più interessanti per metterlo al concorso, e c'è stata una votazione pubblica sul sito di Internazionale. Poi una giuria si è riunito e domani annunceremo i premi. Ok, c'è anche un volume che è uscito, una raccolta di queste vignette. Tenteremo, ne abbiamo scelte tre, di farle vedere anche alla radio. Tre vignette significative. La prima che hai scelto, Thierry? Allora, primo vorrei solo aggiungere che abbiamo fatto questo perché consideriamo che la vignetta è un elemento importante del dibattito politico e della democrazia. Non è a caso che la satira è nata in Grecia con la democrazia greca. Quello volevo dire. La prima vignetta è quella di Andrea Righi, e che mi sembra molto significativa perché ripresenta più o meno la situazione attuale. Dunque, questa vignetta presenta una casa antica, una casa padronale, un po' in rovina, anche abbastanza in rovina, con la bandiera europea sopra, e dietro di questa casa ci sono dei palazzi enormi, moderni, dove c'è scritto Brasil, Russia, India, China, e ci sono due piccoli personaggi che dicono, un inglese e un francese, che dicono forse adesso dobbiamo darci da fare. Okay. E questo secondo me è una rappresentazione molto molto vispa e molto appunto della situazione europea. Siamo una vecchia civiltà che sta un po', che si sta lasciando un po' andare. Questa è una delle vignette scelte, poi andremo a farvene vedere altre via radio, un po' di satira europea, però volevamo appunto aprire anche qualche oblò, qualche finestra su quello che sta accadendo a Ferrara in queste giornate del Festival di Internazionale, da dove siamo in diretta. E sul palco con me c'è Bruno Giussani, a cui do il benvenuto. Ciao Bruno. Buongiorno. Bergamasco svizzero, giusto? E questa è un po' la definizione. Un miscuglio simile, sì. Già ci piace come partenza. Direttore europeo di TED e i TED, cosa sono, Bruno? Perché si stanno svolgendo qui a Ferrara in questi giorni, però ci piaceva dare proprio una spiegazione base. Ma senti, TED è un'organizzazione non profit, globale, che crede nella capacità delle idee di cambiare il mondo, e quindi stiamo sviluppando una piattaforma che è fatta di conferenze, di siti web, di altre attività, per cercare di identificare le buone idee in tutti i settori, dalla scienza al design alla politica, e aiutarle a diffondersi il più largamente possibile. Mm-hmm. Quindi è proprio un format, TED sta per? Technology, Entertainment, Design, tecnologia, media e design, che erano i tre settori originali alla nascita di TED 25 anni fa, e poi abbiamo aggiunto tutti gli altri durante gli anni. Quindi se hai un'idea, uno vi scrive, voi date la possibilità di esporla, di presentarla? Sì, al centro ci sono una serie di conferenze, due grosse conferenze annuali che durano una settimana ciascuna, e poi un migliaio di altri piccoli avvenimenti locali organizzati da gruppi, membri della nostra comunità, dove mettiamo in scena degli scienziati, per esempio, che vengono a raccontare la loro ultima scoperta in un modo molto particolare, in un tempo ristretto, massimo 18 minuti, che è il nostro formato classico, con uno sforzo di preparazione abbastanza spinto, in modo da poter creare un modo per trasmettere, per condividere un'idea, una scoperta, un'esperienza, con non soltanto competenza, ma anche con una certa passione, un rapporto quasi da insegnante allievo. E c'è chi ascolta? E c'è chi ascolta alle conferenze, che sono tutte vendute con mesi e anni in anticipo. La conferenza del 2012 era venduta in febbraio 2011 già, e c'è chi ascolta via internet. Abbiamo superato il 500 milioni di video visti. Ma puoi darci veramente anche un paio di esempi, forse anche delle cose? Qui a Ferrara ci sono i video, no? State presentando... Qui a Ferrara stiamo presentando tre sessioni di video, quindi su tre temi specifici, con una selezione curata di video, sottotitolati in italiano ma tutti in inglese. Fondamentalmente questo è un posto dove vengono gli Al Gore, Bill Clinton e Bill Gates a fare degli interventi specifici su cose che non riguardano, fra l'altro, la vendita di il loro ultimo libro o la promozione della loro azienda, ma che riguardano delle idee innovative. Ma è anche il luogo dove vengono degli scienziati semi sconosciuti che andiamo a pescare in Svezia o in Uganda, e che hanno fatto cose straordinarie e che meritano di essere messe in evidenza e condivise con il resto del mondo. C'è un TED che ti porti con te? Sì, ce ne sono molti, ma ce n'è uno in particolare. Se io adesso dicessi qui a chi è qui nel chiostro, ma fra un'ora c'è uno specialista svedese di salute pubblica che parla nell'altra sala, andiamo tutti a sentirlo, nessuno si alza perché non è che sia una cosa assolutamente appassionante, detta così. Però in realtà abbiamo scoperto questo signore, Hans Rosling, che insegnava a Stoccolma questo tema, e che ha un modo fantastico di raccontare la sua storia, con delle animazioni, si mette veramente in scena, si prende la responsabilità di diventare quasi un attore di quello che racconta. L'abbiamo invitato alla conferenza, le abbiamo dato i suoi 18 minuti, l'abbiamo rinvitato l'anno dopo perché ha avuto un successo strepitoso, e praticamente sta cambiando il modo di vedere i problemi della salute pubblica nel mondo, in particolare nei paesi emergenti, da solo, semplicemente con la sua passione e la sua capacità di trasmettere la sua competenza attraverso un formato molto molto diverso dagli altri. Cioè, detta così sembra 18 minuti di gloria non si negano a nessuno, invece fate una sorta di, di selezione. No, c'è una selezione, c'è una selezione. Intanto c'è la selezione per essere invitati a parlare alla conferenza e poi c'è una selezione per i video che vanno sul sito. Noi pubblichiamo un video al giorno, ne abbiamo 1050 attualmente, sottotitolati in dozzine di lingue, e quindi c'è una certa concorrenza per quell'unico video quotidiano. E complimenti Bruno per il lavoro, tra l'altro. Grazie. So veramente che il tuo team è vastissimo. C'è un sito internet che vuoi dare come riferimento? TED.com. Ah, perfetto, è facilissimo. Facilissimo. Okay. Grazie davvero, Enrico. Bocca al lupo. Noi torniamo invece alla nostra rassegna stampa di cui abbiamo invaso lo spazio con me, Gian Paolo Accardi, Andrea Pipino. Dove ci portate, Andrea? In Spagna. Spagna, un paese di cui ci siamo occupati, di cui anche la stampa italiana si occupa, per parlare dell'inizio della campagna elettorale per le elezioni politiche che si terranno il 20 novembre. Ufficialmente sono state annunciate la settimana scorsa da Zapatero, anche se già da luglio si era capito che l'attuale premier si sarebbe dimesso, avrebbe lasciato il posto al suo vice ministro degli interni Alfredo Perez Rubalcaba, e quindi ha annunciato Zapatero la settimana scorsa l'inizio della campagna elettorale, e nei giorni scorsi c'è stato il congresso dei socialisti a cui ha partecipato anche Felipe González. Questo è un argomento secondario, ma vedo che qui nella copertina che abbiamo scelto si parla anche degli indignados, che è un fenomeno dei fenomeni sociali più importanti degli ultimi mesi, che insomma, ha avuto successo, un grande successo in Spagna, ma non solo. È un fenomeno paneuropeo, addirittura globale, visto che le ultime manifestazioni di massa dei giovani che protestano contro la politica e contro il governo sono avvenute in Israele. In questo caso si parla, se non sbaglio, di un'aggressione o comunque di una, insomma, di una deriva pseudo-violenta delle manifestazioni degli indignati contro i parlamentari dell'Assemblea catalana. Comunque, ecco, questo è uno dei temi. Un altro, dicevamo, è quello delle elezioni politiche che si stanno per svolgere. La prossima? Aspetta, stiamo giocando anche con il bello della diretta. Allora, adesso andiamo in Gran Bretagna con il Daily Express, che è uno dei tabloid popolari più diffusi in quel paese, e che titola sul gran caldo che sta colpendo il Regno Unito in questo momento. Ci sono 90 gradi Fahrenheit, che sono super giù, 30 gradi Celsius, e quindi ci si dirige, anzi siamo in un ottobre red hot, insomma. Un ottobre molto molto molto caldo, un ottobre torrido, e questo sembra ci si diriga l'autunno più caldo di sempre. Sono le tipiche notizie che piacciono molto ai tabloid britannici, che non sono abituati a avere queste situazioni climatiche ottobre, quindi la gente esce, va a fare il bagno nel Tamigi, sono cose del genere. Un momento di godimento nel dare, nel leggere questa notizia, però la prendo come spunto per tornare da Thierry. Adesso arriviamo anche alla vignetta, però clima è legatissima a quello di cui parlerete domani. Parlerete di crisi, ma di crisi legata anche alla crisi energetica e crisi climatica, vero Thierry? Sì, di fatto domani alle 11 al Cinema Apollo faremo un dibattito sulla problematica delle crisi energetiche e dei rischi tecnologici. Ovviamente uno dei problemi più importanti in termini di energia e la produzione di CO2, e dunque tutto il problema dell'ozono e tutto il problema del riscaldamento. E di fatto per il momento si pensa che se non si fa niente la temperatura media potrebbe aumentare di 4 gradi, di ben 4 gradi, tra 10-15 anni. E quindi parlerete di questo, parlerete di possibilità, di soluzioni, di opportunità? Ovviamente il problema è piuttosto adesso di sapere se possiamo o no fare qualcosa. E dunque di questo parleremo, perché il nucleare sicuramente è un rischio, ma i rischi sull'ambiente forse sono ancora più globali e più importanti. E ci fermiamo per la pubblicità, però abbiamo un minuto ancora, la seconda vignetta. Sì, la seconda vignetta è una di un greco, perché volevamo anche fare un po' un punto per i greci, e ripresenta l'arrivo dei capi di Stati a un Consiglio europeo a Bruxelles, dove devono parlare della Grecia. E si vede la Francia, il presidente francese che esce di una grossa macchina, la cancelliere Merkel che scende di una grande macchina, e il greco che lui scende da un cassonetto delle immondizie. dove è scritto Moody's. E vorrei prendere due secondi per leggere il commento dell'autore, che dice, è un greco che si chiama Yannis Ioannou, e che dice: l'eterna domanda, cos'è l'uomo, da dove viene, dove sta andando, ha finalmente trovato una risposta. Oggi ci sono le tre agenzie di rating che decidono cosa è umano e cosa è spazzatura. E un altro ospite è arrivato qua con noi sul palco, ve lo presenterò fra pochissimo. Gianpaolo Cardo e Andrea Pipino, Presse Europea Internazionale, insieme in questa contaminazione con Euronet. Insomma, l'Europa che si racconta, anche questo è un po' il valore di quello che vogliamo fare settimanalmente a Radio 24. Dove andiamo, Andrea, Gianpaolo, dove ci portate questa volta? Bene, in Gran Bretagna. Sì, rimaniamo in Gran Bretagna con la prima pagina del Guardian di oggi. Il Guardian è anche uno dei nostri giornali preferiti e che, come spesso accade, ha delle rivelazioni. E oggi ci rivela come la City, quindi il centro finanziario di Londra, diciamo finanzia il partito conservatore. Il signore che sembra una statua di cera, che si vede nella foto in primo piano, è il leader, anzi è il ministro delle finanze George Osborne, e il Guardian spiega in questo articolo che circa la metà delle donazioni a partire dalle ultime elezioni provengono dalla City e in particolare dagli hedge funds, da dei finanzieri privati e dalle private equities. Si parla di circa 1 milione di sterline al mese e spiega il Guardian che questo naturalmente solleva delle domande sul ruolo della finanza, sul peso della finanza britannica, sulle scelte del governo conservatore, in particolare sulle scelte in materia di tagli e sulle scelte in materia di politica fiscale. Ci si chiede, dice il Guardian, quali siano le vere preoccupazioni del governo Tory, del governo conservatore, se è il benessere dei cittadini oppure il benessere della City. O il bonus dei banchieri, che è un argomento legato a questa cosa e sul quale i Tory sono stati ripresi dagli elettori e anche sono stati al centro di alcune polemiche su alcune decisioni che avevano preso per tagliare i bonus, tassare molto di più i bonus dei banchieri e che poi invece sono rientrate. Andrea Gianpaolo, prima di cambiare argomento ho una domanda da... Il contesto è più o meno quello dell'aperitivo più che quello della diretta in radio, però insomma voi fate un lavoro simile, tu però lo fai da Parigi, tu lo fai da Roma, di fatto leggete prevalentemente stampa europea, e tu Andrea, ecco, ti tocca anche leggere un po' la stampa italiana però immagino... Io più che altro per internazionale mi occupo della stampa europea, quando mi capita di collaborare con Press Europe invece seleziono la stampa italiana. Ok, però leggendo solo testate europee, quando poi leggi... Come ti informi sull'Italia? Cioè, ti basta quello che leggi all'estero o... No, per il mio interesse leggo anche i giornali italiani. Devo dire che su alcuni argomenti anche i migliori giornali italiani non sono, secondo me, all'altezza di alcuni giornali, dei grandi giornali europei, in particolare la politica estera. Ok. Tu invece, Gianpaolo, che da Parigi ogni tanto ti ricordi della tua italianità latente... Beh, io tengo sempre aperte comunque le homepage dei quotidiani italiani sul mio computer, anche se devo ammettere che non leggo un giornale cartaceo da un bel po' di tempo, per rimanere informato, anche perché qualche volta vado un po' a vedere anch'io che cosa c'è da spulciare nei giornali italiani, che cosa c'è da tirar fuori, in particolare dei commenti interessanti sulla crisi dell'euro oppure sulla politica italiana. Ecco, devo dire che sulla politica italiana i giornali italiani hanno i commenti più interessanti. Invece per quanto riguarda le spiegazioni dei fatti, spesso devo andare a leggermi sui giornali stranieri perché sono più sintetiche. Ok, questa così era una curiosità personale. Un altro punto di vista straniero di un'italiana e che è italiana, do il benvenuto a Michela Marzano. Ciao Michela. Ciao. Ciao, filosofa, scrittrice italiana, nata a Roma, ma si occupa di filosofia morale e politica, insegna a Parigi. Da quanto ormai sei a Parigi? Sono a Parigi ormai da 13-14 anni. Ok, e tante interviste in rete, no? Parlano di te come insomma, una delle 50 pensatrici francesi, però per anni sconosciuta in Italia, cioè... Questa etichetta da cervello in fuga ormai l'hai abbandonata o ancora ti perseguita? Ah, io non la sopporto come etichetta. Primo perché non sono solo un cervello, cioè spero di avere un cervello ma di non essere un cervello. E poi questa espressione in fuga anche non mi è mai piaciuta. Non sono in fuga. Mm-hmm. Io sono sempre tra la Francia e l'Italia. si trova, cioè per caso, così ho cominciato a lavorare in Francia. E quindi insomma quella è diventata la tua seconda casa, ma senza rinnegare, no, perché appunto veramente tantissime delle tue interviste prendono subito questa deriva che tu no, ma adesso non più, per fortuna sì, no, non infatti, più infatti abbiamo superato questo. Michela, Volevo essere una farfalla è il tuo libro appena scritto dalla Mondadori, che tra l'altro è storia strana, perché racconti di te a questo giro, nel senso che tu hai fatto sempre analisi molto belle della società, hai parlato di donne, hai parlato di corpo, e con la filosofia al centro, anche in questo caso la filosofia al centro, che però riporti nella tua storia personale. Credo sia stata una scelta complicata, ma utile più a te o più ai lettori, pensi? Allora, scelta complicata sì. L'utilità non è proprio il primo criterio che mi fa scegliere qualcosa. No, per me è stata una scelta necessaria. Cioè, secondo me era arrivato il momento in cui io dovevo anche svelare le carte. Cioè, io dopo aver lavorato, io lavoro da 15 anni sul corpo e più in generale sulla fragilità e la vulnerabilità della condizione umana. Cioè, c'ho un punto di vista particolare, mi occupo di etica applicata. Ed era arrivato anche il momento in cui io dovevo cercare di spiegare perché avevo scelto questo modo particolare di far filosofia, invece di far, per esempio, storia della filosofia, oppure filosofia analitica, logica, eccetera. E dietro, naturalmente, c'è la mia storia. Allora, come diceva Hannah Arendt, un pensiero che non parte dall'evento, dove per evento si intende ciò che ci attraversa, ciò che ci sconvolge, è un pensiero vuoto. Allora, qual è stato l'evento che mi ha attraversato? L'evento che mi ha attraversato è stato un sintomo, lo chiamo sintomo e non malattia, il sintomo è l'anoressia, che mi ha attraversato la mia vita, che era sintomo di una sofferenza profonda, di una vulnerabilità particolare, e quindi ho voluto spiegare perché, come e soprattutto cercare di dare delle piste per mostrare che se ne può uscire, quindi messaggio di speranza, e che al tempo stesso serve per acquisire una consapevolezza di ciò che si è. Quindi è un sintomo di ciò che non va, ma al tempo stesso, paradossalmente, un modo di dire sì alla vita. E tutto ciò sembra quasi scritto di getto, ma forse anche in parte è scritto di getto. Quindi tu parlavi di etica applicata, è una filosofia applicata, nel senso che è fortunatamente anche un libro di facile lettura, che credo che... Allora, io spero che sia di facile lettura, non è proprio stato scritto di getto, perché... Sembra. No, perché ogni parola, le parole sono pietre, eh? Ogni parola è stata scelta, per cui... No, ma l'effetto effettivamente era quello di cercare di mostrare che fosse stato scritto di getto. Se l'avessi scritto veramente di getto, secondo me ci sarebbe stato un problema, perché non si trattava nemmeno di, scusate l'espressione, vomitare parole su una pagina. Si trattava di cercare di mostrare, prendendo una distanza, cosa significava e cosa ha significato farsi attraversare dal cibo. Michela, questo è il tuo libro, Volevo essere una farfalla, però domani parlerete di corpo, di donne... Oggi pomeriggio alle 5:30. Qui prendendo spunto anche da un altro tuo libro, di cosa tratterrà l'incontro? Allora, perché domani presento il libro Volevo essere una farfalla, invece oggi pomeriggio c'è una tavola rotonda sulla donna e sull'immagine della donna, credo che ci sia la parola bambola, che credo riassuma molto bene... una certa involuzione della rappresentazione della donna oggi in Italia. Bisogna anticipare quello che si dirà? No, perché bisogna aspettare che le persone vengano, no? No, beh, insomma, hai già detto tanto, ma solo di Italia si parlerà. Questo no. Mi interessa, perché insomma il tuo è un osservatorio privilegiato, infatti che comunque sei a Parigi, hai anche l'occhio straniero, diciamo. No, non si parlerà solo di Italia, ci sarà uno sguardo un po' incrociato, ci sarà per esempio Beatrice Preciado, che è spagnola e che però conosce molto bene la Francia, quindi cercheremo di incastrare punti di vista diversi. Secondo me, per cercare di mostrare che questa involuzione che riguarda noi donne non è un caso specifico italiano, anche se in Italia c'è sempre l'aggravante, nel senso che per esempio in Francia c'è questa involuzione, però la donna non è solo una bambola, mentre in Italia le donne reali, naturalmente, della realtà esistono, però nella visibilità pubblica si trovano soprattutto bambole, e quindi cercare di spiegare questo paradosso vedendo anche cosa succede altrove. Ecco, tu leggi i quotidiani italiani, pensi ai tuoi studi di etica applicata, e cosa pensi? È stato tutto inutile? No, diciamo che quello che penso è che c'è ancora tanto, troppo da fare, però la speranza resta che le cose possano evolvere, cioè, anzi mi sembra che ci sia una tale, come si direbbe in francese, ras-le-bol, cioè non se ne può più, che secondo me è proprio il momento di dare strumenti concettuali alle persone, non solo per protestare fisicamente, ma anche proprio per argomentare, per fare in modo che la situazione cambi pian piano. Grazie davvero a Michela. Allora, ricordiamo, oggi alle 17 al teatro, 17.30, Teatro Comunale, Il ritorno delle bambole, il libro invece di Michela Marzano, Volevo essere una farfalla, edito da Mondadori. Domani, grazie, a mezzogiorno. Domani a mezzogiorno la presentazione. Grazie davvero Michela. E torniamo alla rassegna stampa, prima però un'altra vignetta. Thierry, cosa hai preparato per noi? Sì, la terza vignetta tocca un soggetto molto importante che è l'immigrazione. È una vignetta che è firmata da Ceci Gian, che è una coppia di vignettisti. E questa rappresenta un naufrago di colore in piena mare, è appoggiato su un pezzo di legno galleggiante, poi su questo pezzo di legno c'è una bottiglia e un tappo, e c'è un pesce che lo guarda con degli occhi spalancati, e questo sta scrivendo una lettera di domanda di rifugio, dicendo: attualmente vivo tra Sharm e Cortina. Molto sarcastica nella sua drammaticità, però molto molto bella. Grazie davvero Thierry. Torniamo alla rassegna stampa invece, il nostro viaggio in Europa con le prime pagine dei quotidiani europei di oggi. Dove andiamo? Andiamo in Grecia, un paese del quale si è parlato molto nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, del quale si parlerà ancora probabilmente, a causa della grave crisi del debito che sta affrontando, e la crisi del debito ovviamente anche in prima pagina dell'edizione in inglese di Katimerini. Katimerini è il più grande quotidiano economico del paese, che ha un'edizione quindi in inglese e una in greco. E il titolo di apertura è La corsa per convincere la Troica. La Troica è un organismo composto da rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale, della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea, che ha come missione quella di stabilire di stabilire il piano di salvataggio della Grecia, in sostanza, e di verificare che i greci stiano effettivamente compiendo le riforme che la Troica chiede per risanare i loro conti pubblici. E rimangono ancora pochi giorni al governo greco per presentare il suo piano di riforme, in particolare per quanto riguarda gli stipendi dei dipendenti pubblici e per fare ulteriori tagli ai funzionari. Non sono i primi tagli, c'è già stata una serie di tagli, e queste misure sono necessarie se la Grecia vuole ricevere una nuova tranche di aiuti del piano di salvataggio da 110 miliardi di euro che era stata approvata un po' di tempo fa. Le discussioni però sono state interrotte venerdì perché ci sono state delle proteste dei indignati greci, hanno impedito agli uomini della Troica di accedere ad alcuni ministeri nei quali volevano entrare per fare delle verifiche. Oggi peraltro il presidente francese Sarkozy dovrebbe recarsi in Grecia per portare in certo senso la solidarietà europea, per garantire ai greci il sostegno dell'Europa. Ora vorrei farvi vedere brevemente una vignetta, visto che parlavamo di vignette, non so se Pasquale può ingrandirla ancora un po'. È una vignetta di Yannis Makris, che è l'illustratore principe di Katimerini, e vediamo il primo ministro greco George Papandreou, che rivolto probabilmente ai suoi concittadini dice: ragazzi, Merkel dice che non lasceremo l'euro, e rispondono i suoi concittadini: non lo lasceremo da qui? Insomma, sono un po' in fondo al baratro, secondo Katimerini. Tra l'altro questa copertina presenta un simpatico cortocircuito linguistico, perché il titolo, la testata del giornale è in greco, in caratteri greci, poi il contenuto è in inglese, perché questa è l'edizione inglese, come ha detto Giampaolo, e poi sotto c'è un titolo in latino di un commento sulla situazione finanziaria del paese. Thierry, prima di tornare alla rassegna stampa e prima anche di scoprire cosa succede giocando con le lingue in Europa, un assaggio, perché Euronet ha lanciato un concorso proprio in questi giorni per gli under 30 aspiranti giornalisti. Di cosa si tratta? Da voi si deve sapere di cosa si tratta quando si parla di Euronet, che è una rete di radio europee che ha permissione, che è finanziato dall'Unione Europea, ma con piena libertà editoriale, come Press Europe, e che ha permissione di parlare di soggetti europei, sia politici che di altri temi. E dunque queste 17 radio, più delle radio campus, che fanno delle emissioni adesso in più di 17 lingue, parlano sempre di temi europei. E dunque hanno deciso, perché lavorano molto con i radio campus e con i giovani, di creare questo premio per i giovani di meno di 30 anni che hanno l'ambizione di fare un po' di radio, di fare radio. E dunque l'idea è di scegliere tra i candidati quelli che possono andare a Strasburgo per registrare un soggetto sul tema dei diritti dei cittadini europei. Quelli che vinceranno questo, 5, vinceranno un iPad. Che male non fa. E poi soprattutto il vincitore globale, il principale vincitore, avrà la possibilità di fare un tirocino completamente pagato di un mese in una delle radio della rete. Ok, e le selezioni, appunto, uno per ogni radio, quindi uno per ogni nazione, comunque tutte le info si possono trovare sul sito euronet.eu/ita per le informazioni in italiano. Torniamo alla rassegna stampa in Russia? In Russia, sì. Andiamo in Russia, ci occupiamo dei rapporti ancora burrascosi tra la Russia e la Georgia dopo la guerra del 2008. In questo caso si parla della decisione del governo di Tbilisi di accettare l'assegnazione, la costruzione di un radar a lungo raggio in territorio georgiano. Nella foto che si vede nella prima pagina di Nesa Visi, Maya Gazeta, che è il giornale che abbiamo scelto, ci sono il ministro degli esteri georgiano, Grigol Vashadze, e Hillary Clinton. La preoccupazione dei russi è che la costruzione di un radar strategico in quella zona serva soprattutto per controllare le operazioni militari russe. Questa è una preoccupazione che Mosca ha da tempo, da quando l'idea di costruire un radar da parte degli Stati Uniti doveva coinvolgere altri paesi, la Polonia ad esempio e la Repubblica Ceca. Poi quel progetto è rientrato con i nuovi rapporti tra l'ultima amministrazione americana, quella di Obama, e il presidente Medvedev, però evidentemente insomma, di fondo sono problemi che non sono stati risolti. Problemi non risolti come quello del multilinguismo in Europa, ma forse una soluzione c'è e questa soluzione si chiama Europanto. Quando vas bambino londo mucho distante, almost quanto der luna, Parisa in Morgana, van luminose tower, muchachas kissingantes amorosas, trenos impotentes, good travel nada, prisoners van multiplas fronteras. Quello che sta cantando si chiama Paolo Bergamasca, un funzionario della Commissione del Parlamento europeo, è anche cantautore oltre che veterinario e un sacco di altre cose nel suo biglietto da visita, e in questa canzone sta cantando in europanto, lingua non lingua, ideata da Diego Marani, scrittore e traduttore ferrarese, tra l'altro, quindi gioca assolutamente in casa. E Diego Marani è qua con noi. Ciao Diego. Salve. Intanto mi hai salutato in italiano e già la cosa mi tranquillizza, o anche in europanto salve si dice salve? No, si dice allo cocco. Perfetto. Allora, Diego, spieghiamo subito cos'è questo europanto e dov'è il confine tra follia e invece un qualcosa di serio, di concreto, di il confine fra follia e qualcosa di serio mi attraversa nettamente, quindi è qui con noi. Dunque, l'europanto, vi tranquillizzo, è solo un gioco, una provocazione. Io non sono pericoloso, lo sappiate tutti, non sono lo scienziato pazzo che ha inventato la lingua che non c'è. L'europanto per me è un gioco che serve a spingere la gente a capire che con le lingue intanto si può giocare e che poi non è poi così difficile impararle. Por speak europanto, tu just basta che mix parolas fan differente linguas, necessite caine study, caine grammatica, just improviste, unt sempre comprende. È tipo l'europanto, il bagnino dei Lido Ferraresi, esatto. È lui. L'europanto è l'invenzione dell'acqua calda, lo avrete capito tutti, del resto io il mio primo europanto l'ho sperimentato qui nei nostri lidi, quando credendo, io che ci credevo nell'imparare le lingue, mi studiavo l'inglese e il francese per parlare con le turiste tedesche. E invece il figlio del fruttivendolo del mio paese parlava come me l'europanto oggi e rimorchiava molto più di me con le tre parole di tedesco che sapeva, che era viele Leute, 25, che era l'unico prezzo vigente nel suo negozio di frutta e verdura. Quindi ecco, da questo gioco, da questo spunto, io parto per cercare di spiegare ai tanti europei, ma ai molto più italiani, che le lingue non le imparano, che non le capiscono e non le vogliono capire, quando invece basta poco per avere un assaggio di una lingua, e quando il multilinguismo che noi professiamo sarebbe così facile da raggiungere. Vi faccio un esempio eterno di multilinguismo. Scusa Diego, prego. Il multilinguismo noi lo conosciamo in Italia senza rendercene conto. Noi siamo abituati da italiani a sentire l'accento, non solo l'accento, ma anche lingue diverse, i film di Totò e quelli di Troisi. Non ci stupiamo di non capire tutto, delle volte di non capire quasi niente. Eppure queste lingue, che sono diverse dall'italiano standard, le consideriamo lingue nostre, che fanno parte della nostra cultura. Ecco, dovrebbe arrivare un giorno in Europa dove tutte le lingue le percepiremo come qualcosa di nostro, anche senza capirle tutte, ma parlandone e imparandone un paio. Si possono imparare un paio di lingue molto facilmente rendendole attive, e se ne possono comprendere tante altre con i tanti metodi che ci sono oggi. Questo è il multilinguismo per noi della Commissione Europea. Infatti, dove tu lavori seriamente, insomma, come... Sì, lavoro perfino seriamente. Questo. No, ma Diego, ecco, la domanda che tutti, proprio la vedo nella faccia del pubblico qua, è questa. Cioè, siete almeno in due a conoscere l'Europanto o parli da solo? Dunque, sì, io parlo molto da solo e questo preoccupa tante persone, ma ripeto, non sono pericoloso. Su internet c'è un sito americano, gli americani prendono sempre le cose molto sul serio, si chiama Ethnologue, che recensisce tutte le lingue, anche l'Europanto è recensito e c'è scritto Number of Speakers 1, eccomi qua. Perfetto, allora terminato l'applauso doveroso, terminato. Grazie, il programma qui buono. Al Chiostro di San Paolo ci sarà una rassegna stampi in Europante, si parlerà comunque anche con Giampaolo, credo, insomma, si modererà e si parlerà proprio di multilinguismo, proprio un assaggio di rassegna stampa di quello di cui andrai a parlare, proprio 20 secondi, dacci una notizia. 20 secondi, una notizia, l'Europanto è surreale, quindi anche le notizie sono surreali, ma potrebbero succedere domani. Il titolo è Herr Berlusconi become eine trans. Herr Berlusconi declared yesterday the want to become eine transsexuale. In eine sexuale migrazione process, presto der italianse primo ministro shall transforme in eine Frau. Yesterday, in eine press conferenza, Berlusconi dixit. Ich esse disgusted by alle diese sexuale scandales degradante meine persona. Als eine ombre ich hatte formidable puttanose experiences mit femminile partners. Ahora esse eine pochito annoiated. Siempre escort, siempre olgettinas, basta. Ahora vant experimente anders und eine viados became. Moi también necessite fresh air. Fra pochi minuti qua sul palco continuerà la rassegna stampa in Europanto. Grazie. E chiudiamo proprio, abbiamo 10 secondi, diamo proprio l'ultimo titolo, Giampaolo. Sì, vorrei presentarvi l'uomo che forse farà cadere Sarkozy, o meglio farà in modo che non sia rieletto, Ziad Takieddine, un intermediario di affari francese che è coinvolto in uno scandalo che coinvolge anche Sarkozy. Perfetto, da Ferrara è tutto, un grazie al pubblico presente con l'Altra Europa, sempre su Radio 24, sabato prossimo alle 10. Ciao!